Terra in vista. L'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. Bentornati a Terra in Vista, un saluto da Federico Taddia e da Telmo Piovani. Ciao Telmo. Ciao, eccoci. Il nostro viaggio per spiegare l'Expo ai più piccoli, ma non solo, perché questo è un modo per raccontare i grandi temi di Expo. Lo facciamo con grandi ospiti, ma anche con le filastrocche, anche con le attività scientifiche e artistiche da fare insieme, grandi e piccini. La parola di oggi è una parola importante, vero Telmo? Sostenibilità. Sostenibilità, che tra l'altro è una parola che va di moda, tra virgolette, da qualche anno. È una sorta di parola nuova abbinata ai nostri stili di vita. Sì, è una parola recente, sviluppo sostenibile. Non sempre si capisce esattamente che cosa vuol dire. E partiamo proprio dal significato di sostenibilità e, come sempre, prima di tutto lo abbiamo chiesto ai bambini. La sostenibilità è una cosa che ti sostiene. Il corpo, ad esempio. Qualcosa che si beve? Non lo so. Una cosa che sostiene? Ad esempio, se tu non sostieni un'alimentazione buona, può essere che ingrassi oppure che dimagrisci. Che si può fare, però poco volte. Per me è qualcosa che ti sostiene ogni giorno. Una cosa che sostiene qualcosa. Quando uno è in difficoltà e un'altra persona l'aiuta. Quando, ad esempio, qualcuno sostiene qualcun altro. Ad esempio, quando una persona dà un'altra persona che magari non ha questa cosa una cosa. Come, ad esempio, un ricco che dà da mangiare a un povero. Tipo un orto da sostenere. Tipo un contadino sostiene un orto di verdura o di frutta. Sono quelli che sostengono il cibo. Non mi viene. Parola complicata questa sostenibilità, c'è un po' di confusione, il sostenersi, la solidarietà, l'orto, Robin Hood, anche, no? Prendere ricchi per dare ai poveri. Riusciamo a dare una definizione di sostenibilità, Telmo? Ma dunque, i bimbi l'hanno soltanto sfiorata, è una parola difficile, no? non è intuitiva. Sostenibilità vuol dire questo, vuol dire imparare a utilizzare le risorse naturali, che possono essere le più diverse, gli animali, le piante, ma anche le fonti di energia, come il petrolio nascosto negli strati profondi della terra, farlo in modo tale che queste risorse possano rinascere, possano rigenerarsi naturalmente e quindi essere ancora a disposizione per chi verrà domani. Sostenibilità è una parola da declinare al futuro, vuol dire comportarsi oggi in modo da garantire un futuro ai nostri figli, ai nostri nipoti e a chi verrà. Considerando un fatto molto semplice che sappiamo tutti ma non ce lo ricordiamo, che la Terra per ora è una sola e non è infinita, è una sfera lì in mezzo al vuoto cosmico e non abbiamo un'altra di riserva. E pensa che la sostenibilità è una parola che ha cominciato a girare quando i primi astronauti sono usciti dalla Terra e l'hanno vista da fuori. Uno dei primi che è andato fuori la vista ha detto: ma è un'arancia blu. Un'arancia, quindi una sfera un po' irregolare, blu perché piena di aria, di acqua, ed è lì tutta sola, fragile, e questo vuol dire la sostenibilità. E oggi questa Terra andremo a conoscerla meglio e andremo a scoprire tante sfumature di questa parola sostenibilità. Una filastrocca, il traffico e poi ancora Terra in vista. Storia universale. In principio la Terra era tutta sbagliata. Renderla più abitabile fu una bella faticata. Per passare i fiumi non c'erano i ponti, non c'erano sentieri per salire sui monti. Ti volevi sedere? Neanche l'ombra di un panchetto. Cascavi dal sonno? Non esisteva il letto. Per non pungerti i piedi, né scarpe né stivali. Se ci vedevi poco, non trovavi gli occhiali. Per fare una partita non c'erano palloni. Mancava la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni. Anzi, a guardare bene, mancava anche la pasta. Non c'era nulla di niente, zero via zero e basta. C'erano solo gli uomini, con due braccia per lavorare. e agli errori più grossi si poter rimediare. Da correggere però ne restano ancora tanti. Rimboccatevi le maniche, c'è lavoro per tutti quanti! Terra in vista. Terra in vista, l'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. La parola di oggi è sostenibilità e lo sapete, insomma, andiamo a cercare di raccontare, di narrare questa parola attraverso le domande dei più piccoli. E questa è la domanda con la quale iniziamo. Chi sostiene la Terra? Non è male, Telmo, chi sostiene la Terra, vero? Perché no. Uno non ci pensa, ma in effetti... Eh sì, è lì nel vuoto, come fa a stare lì? Questa domanda la giriamo a un esperto e abbiamo convocato Federico Pulselli, ricercatore di chimica dell'ambiente e dei beni culturali, lavora nel gruppo di ecodinamica dell'Università di Siena, da anni si occupa proprio dei temi legati alla sostenibilità, quindi ci sembrava la persona giusta per dare questa risposta. Ciao Federico, benvenuto a Terra in Vista. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. E allora, chi la sostiene questa Terra, chiedeva il nostro giovane amico. Bravo il nostro amico. Direi apparentemente nessuno o nulla. Per spiegare questa cosa mi viene in mente una o più fotografie che furono scattate tanti anni fa al nostro pianeta, e furono scattate dagli astronauti, perché bisogna allontanarsi un po', no? Per inquadrare completamente la nostra Terra, che appare come una palla quasi completamente blu, perché mm-hmm. è coperta dall'acqua. E beh, da queste foto non si vede se la Terra è appesa o appoggiata da qualche parte. Però c'è un attore fuori campo che non si vede, senza il quale però questa fotografia forse si poteva fare lo stesso, ma sarebbe venuta completamente scura, completamente buia. E questo attore è ovviamente il Sole, certo, perché con la sua luce illumina la Terra e permette al nostro bel pianeta di far vedere che esiste. Gli americani, quando videro queste foto, dissero che la Terra era una piccola isola di vita che galleggia nell'infinito e nero mare dello spazio. Però ecco, dobbiamo rilevare il fatto molto importante che la Terra non viaggia da sola, ma è legata a una distanza giusta dal Sole, il quale la alimenta e permette alla Terra di andare avanti, di attivare tutti i meccanismi vitali, tutte le cose belle che avvengono sul nostro pianeta. Il problema è sapere chi sostiene noi che abitiamo sulla Terra, cioè capire se noi siamo in grado di partecipare a questo bel gioco di scambio di energia, di luce tra il Sole e la Terra, oppure siamo degli intrusi un po' pericolosi che rischiamo anche di fare un po', di creare un po' di problemi a questo bel rapporto come quello di una mamma con un bambino, no? Certo. Secondo me abbiamo un sacco di cose da imparare ancora. Eh sì, è quello, sicuramente questa Terra che galleggia nello spazio, tenuta ferma e in movimento di fatto dalle energie che guidano, che governano il nostro spazio, e poi ci siamo noi, questi intrusi che rischiamo di rompere questo equilibrio. Eh sì, pensate una cosa abbastanza importante: il Sole ci regala ogni anno una quantità di energia grandissima, che è qualche migliaio di volte più grande rispetto a tutta l'energia che noi ogni anno utilizziamo. Sì. Il problema è che questa energia viene usata dalla natura in modo molto lento, e molto lentamente si trasforma e diventa, non so, diventa un prato, diventa un pezzo di foresta, diventa grano. Però ci vuole tanto sole per fare un po' di grano, un po' di erba, e tanto tempo per farlo. Il nostro problema è che noi invece usiamo molto poco tempo per consumare quel grano, quell'erba o quelle foreste che si formano così lentamente. E questo può essere un problema soprattutto per noi, non per la natura, perché a un certo punto rischiamo di restare senza. Certo, insomma. Federico, grazie davvero per averci così anche poeticamente spiegato chi sostiene la Terra. Ciao, grazie, e buon lavoro. A voi, grazie, ciao, ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Angola. Volete sapere il nome dell'albero sacro della cultura angolana? Si chiama Imbondeiro ed è un gigantesco baobab africano conosciuto anche come albero a testa in giù, perché i suoi lunghi rami sembrano grosse radici e fanno pensare che sia stato piantato al contrario. In Angola, le principali forme di sostentamento alimentare sono la pesca, l'allevamento, l'agricoltura e l'apicoltura. Nel tempo i piatti locali sono stati molto influenzati dai visitatori stranieri e oggi hanno note brasiliane, portoghesi e persino italiane. Pensate che uno dei piatti tipici del paese è la polenta. Le curiosità e le notizie direttamente da Expo e noi continuiamo però a scoprire cosa sia la sostenibilità. Telmo, si sente spesso parlare di una parola, di un nome, che è Gaia. Chi è Gaia? Gaia è la dea della Terra. Perché, sai, su questa domanda difficile, chi sostiene la Terra, ci sono molte teorie, molte storie, no? C'è una bellissima leggenda, non so quanto reale, ma molto bella, di un antropologo che va in India e incontra un saggio indù e gli chiede proprio questo, no? Ma chi è che tiene su la Terra? E lui dice, bah, secondo la nostra grande narrazione è una tartaruga. Allora l'antropologo, che come al solito ha la mentalità occidentale, quindi vuole sapere tutto, dice, ma chi è la tartaruga, su cosa poggia? E il saggio gli dice, un'altra tartaruga. L'antropologo insiste, è questa tartaruga? E il saggio, un po' spazientito, dice, senta, guardi, da lì in poi sono tutte tartarughe. Che è la stessa cosa che in fondo ha detto, se la tartaruga, fuori di metafora, fosse la forza di gravità, è la stessa cosa, noi siamo dentro questa briglia che ci tiene in orbita attorno al sole. E perché Gaia? Perché la Terra viene vista come un tutt'uno da sempre, come la dea, diciamo, della natura, però qualche tempo fa uno scienziato che faceva un mestiere molto particolare doveva cercare di capire, guardando nel cosmo, come distinguere un pianeta vivo da un pianeta senza vita. Sì. E lui si era accorto che il criterio fondamentale è questo: un pianeta vivo è un pianeta instabile, è un pianeta che evolve, è un pianeta che cambia, c'ha un'atmosfera, c'ha dell'acqua dentro. Invece un pianeta morto è un pianeta stabile. Marte, per esempio, è molto stabile, anche se non stabile del tutto. E capì una cosa fondamentale, che c'è un rapporto di simbiosi, potremmo dire, tra il pianeta e la vita che questo pianeta ospita. Interagiscono tra di loro. Per esempio l'ossigeno, che per noi è fondamentale, non c'era da sempre. Una volta era un veleno per gli organismi viventi. Poi, attraverso la fotosintesi, delle forme di vita hanno prodotto l'ossigeno, l'hanno immesso nell'atmosfera e questo ha cambiato completamente il pianeta. Quindi noi oggi viviamo su un pianeta vivo perché la vita lo ha cambiato. E questo scienziato si chiamava James Lovelock, anzi si chiama James Lovelock, e formulò questa famosa ipotesi Gaia, sostenendo che il pianeta e la vita coevolvono insieme, si trasformano insieme e sono ormai diventati un tutt'uno. Questa è un'idea che ha avuto un grandissimo successo. Se pensiamo per esempio a film come Avatar, ha influenzato molto la fantascienza. In Avatar si immagina che questo pianeta sia un organismo che addirittura è intelligente, ha una coscienza e si ribella agli esseri umani che lo sfruttano. Naturalmente questa è fantascienza, ma l'idea che la Terra sia un tutt'uno che si autoregola ha un senso scientifico. E la parola intelligenza è una parola di cui la sostenibilità ha davvero bisogno. Adesso è il momento di Expo Kids. Si gioca! Expo Kids. Dire, fare, giocare. A Terra in Vista è il momento adesso di giocare e di giocare con l'arte, e come sempre lo facciamo con Alessandra Falconi, atelierista del metodo Bruno Munari e collaboratrice del blog disegnangolo.it. Ciao Alessandra, ben ritrovata. Ciao a tutti. Ciao Alessandra. Allora, ciao Alessandra, oggi si parla di sostenibilità, quale spunto creativo ci offri? Allora, io partirei da Leonardo da Vinci, che ci invitava a guardare le macchie dei muri, quelle nella cenere del fuoco, le nuvole, che secondo lui erano delle invenzioni mirabilissime che destano l'ingegno. E quindi mi sono detta, qual è un modo sostenibile per destare l'ingegno dei bambini? C'è una tecnica. Sì. Che Munari non solo ha amato molto, che è la tecnica del frottage. Cosa frottage sarebbe? Arriva da frotté, strofinare. si strofina un foglio appoggiato ad una superficie, può essere la corteccia dei tronchi, ma anche uno scarto di zanzariera, se il babbo quest'estate si cimenta in qualche lavoro casalingo. Sì. Il gioco classico è quello della monetina e delle foglie, dove bambini... Quindi prendo un foglio bianco, lo appoggio su una superficie che abbia dei rilievi. Che abbia una texture, Okay. Non deve essere una superficie piana, non certo. Un piatto da cucina senza rilievo. Perfetto, quindi una corteccia, una zanzariera, la moneta, come stavi dicendo. Sì, ma va benissimo anche il muro di casa, quando è leggermente ruvidino. Perfetto. Oppure la suola della scarpa. I bambini si divertono tantissimo a prendere le scarpe, girarle e cominciare a frottare le suole, perché ne emergono delle texture chiaroscure che danno tante idee per la forma, per quello che improvvisamente con un effetto sorpresa è apparso sul foglio e io non me l'aspettavo. Ed è un gesto che dipende sia dalla forza che io utilizzo e dal ritmo della mia mano che ricalca questa superficie. E uso un materiale anche qui proprio banale, foglie di carta, pastelli o colori a cera. Eh certo, perché poi sono, se ci devo passare sopra con un, ovviamente con un colore, qui va la fantasia del bambino, il bambino può scegliere qualsiasi tinta. Assolutamente, le può mescolare fra di loro. Di solito potrebbe essere bello partire da un colore, perché così mi godo proprio la texture che sono riuscito a catturare e poi gioco invece abbinando i colori. E ci sono artisti che hanno fatto cose meravigliose. Uno su tutti, Max Ernst, che è un pittore surrealista e che nel 1926 in questa Histoire Naturelle ha fatto questo pesce con quest'occhio molto suggestivo. Telmo, tu che sei appassionato di piante, con il giardino della biodiversità di Padova, anche qualche bella foglia forse potrebbe essere bella da essere... Assolutamente, e pensa che abbiamo usato proprio una frase di Leonardo dove dice che non esistono le piante, ma ogni pianta singola va osservata perché è una forma assolutamente unica. Mm-hmm. Quindi molto prima dell'evoluzione aveva capito che la natura è fatta di singoli soggetti, ognuno unico. Insomma, questa è l'arte sostenibile. Alessandra, come sempre, grazie. O hai qualcosa da aggiungere su questa tecnica? No, vi ho ascoltato con piacere. Perfetto, disegnangolo.it, ricordiamo il blog di riferimento dove trovare tante dritte, tante informazioni, tanti consigli sul gioco, l'arte e la pedagogia in generale. Alla prossima puntata, ciao Alessandra, grazie. Ciao. Ciao a tutti voi. Adesso la pubblicità, prima una filastrocca di Bruno Tognolini e poi ancora qua con Terra in Vista. Filastrocca del piccolo gesto importante. Un piccolo gesto è una pietra preziosa. Cela un segreto che è molto potente. Qualcosa accade se tu fai qualcosa. E niente accade se tu non fai niente. Basta un secchiello a vuotare il mare? Basta una scopa a pulire la città? Forse non basta, ma devi provare. Se provi, forse qualcosa accadrà. È un gesto inutile, ma non importa. Piccoli gesti hanno forza infinita. Se ognuno spazza davanti alla porta, la città intera sarà pulita. Dall'ascesa dello Stato Islamico all'immigrazione verso l'Europa, dal boom economico dell'Africa ai suoi infiniti conflitti. Giornalisti, fotografi, analisti, politici, operatori umanitari e cittadini saranno ogni giorno i nostri microfoni per raccontare ciò che accade al di fuori dei nostri confini. Sono Giampaolo Musumeci e anche quest'anno vi dimostrerò che tutti i luoghi meritano di essere visitati, che tante storie devono essere raccontate, che guerre dimenticate e vicende apparentemente distanti sono molto vicine a noi ed entrano ogni giorno nella nostra vita. Vi dimostrerò insomma che nessun luogo è lontano. Dal 27 luglio alle 16 qui su Radio 24. Terra in vista. Terra in vista, continuiamo a parlare di sostenibilità perché è una delle parole più importanti legate ad Expo e andiamo a farlo con una nuova domanda posta dai nostri giovani ascoltatori. Vediamo un po' cosa hanno chiesto questa volta. Chi è che fa ammalare la terra? Ammalare, la parola ammalare non è una bella parola, Telmo? Eh sì, è come se fosse un organismo che però ha dei problemi, quindi vediamo quali sono le cause. Chi è che fa ammalare la terra? Questa è la domanda e la risposta l'abbiamo chiesta al geologo del CNR, Mario Tosti, che è qua con noi. Ciao Mario. Ciao Mario. Eccoci, ciao a tutti, buongiorno. Allora, tu la terra la conosci bene, tu la terra la ami, tu la terra la frequenti da sempre con fare scientifico. Ovviamente questa parola ammalare legata alla terra ti piace? No, ovviamente non mi piace, però è appropriata, nel senso che la Terra, se la vogliamo considerare, come diceva Telmo, una specie di grande organismo, non mettiamo che la Terra sia effettivamente un grande organismo, cioè qualcosa che funzioni tenendo tutto insieme, la vita, l'atmosfera, le acque, le montagne, i vulcani, tutto quanto, insomma, del resto i vulcani, i terremoti sono un segno che questa Terra è viva, comunque, se no non ce l'avrebbe questi segni qui, i pianeti morti non ce l'hanno, Marte, Luna, non è che ci hanno questa roba qui, e infatti non c'è nemmeno la vita. Ecco, se la consideriamo in questo modo, effettivamente la parte superficiale della Terra, per la prima volta da quando ci sono i viventi, con la comparsa dell'uomo, rischia di ammalarsi. Naturalmente è sempre un nostro punto di vista, noi diciamo la Terra amata perché non è più bella come prima, non è più sana come prima, la Terra probabilmente continuerebbe a fare il suo mestiere, anche meno sana e meno bella per gli uomini. Il problema è che quando si ammala la Terra, quelli che stanno peggio per primi, alla fine siamo noi. Ecco, sì, perché è importante porsi questo problema. Non è un problema, sai, di quelli che dicono mi importa la Terra e non dell'uomo. No, le due cose sono strettamente, intimamente legate. Eh sì, la Terra ne ha viste di tutti i colori poi in passato, nell'evoluzione, e se l'ha sempre fatta. Noi non è detto. Ecco, Mario, esatto. Mario, quali sono le cause? Chi è che fa ammalare la Terra? Sono tante, ma la prima, la più di tutte, la più importante di tutte è che l'uomo, nella sua evoluzione appunto, è diventato un animale così predatore, super predatore, che per sopperire alle sue necessità, che sono sempre di più, e gli uomini pure sono sempre di più, intacca quello che sembrava inattaccabile, cioè il dominio della terra. Per esempio le acque, quello che ci viene più facile da dire, perché quando si disperdono nei fiumi e poi in mare le sostanze inquinanti che sono derivate dalle nostre lavorazioni industriali, che ci fanno sì stare meglio, peraltro neanche tutte, ma che pagano un prezzo così alto, poi quel fiume e quell'acqua non sarà più buona per noi. L'aria, quando nelle città diventa così irrespirabile per via della presenza di troppe autovetture che inquinano, quello rende più brutta la città e la terra, ma prima di tutto ci fa stare male a noi. E così infine l'uomo è addirittura riuscito a intaccare le rocce, penetrando in profondità nelle miniere e nelle cave, depredando la terra di tesori passati, che spesso vengono utilizzati per alimentare attività che continuano in quel ciclo lì. Dunque non ci riusciamo ad arrestare in questo vortice che porta a grandi consumi, tutti a spese della terra, ecco, a spese di quello che è la terra. Quindi insomma, la medicina sarebbe cambiare un po' le nostre abitudini di vita. La medicina sarebbe cercare di rendere le nostre attività compatibili con un pianeta che deve continuare a sostenerci. Facendo così, invece, il pianeta continuerà a fare il suo mestiere, come diceva giustamente Telmo, una vista di tutti i colori. Non è che si spaventa del fatto che da 200.000 anni c'è un signore che si chiama Homo sapiens. Ma noi ne avremo, nella migliore delle ipotesi, una maggiore infelicità, ma anche un minore benessere, e soprattutto avremo un pianeta sempre più disuguale. Molto pochi molto ricchi, tantissimi molto poveri. Insomma, questo è uno dei segnali più preoccupanti di questa malattia. Grazie davvero Mario, come sempre, per le tue parole. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Ciao, terra in vista. Ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Congo. La Repubblica del Congo è uno stato dell'Africa centrale che si affaccia sull'Oceano Atlantico. La sua vicinanza all'equatore le conferisce un clima felice, perfetto per la coltivazione di diverse specie agricole, dalla manioca al grano turco, dal riso all'igname o yam, una pianta tipica di questa regione e usata per i suoi tuberi ricchi di amido. Questa varietà e la ricchezza di prodotti consente al paese di avere a disposizione molti piatti saporiti e colorati, come il shikwanga, che si ricava dalla manioca, o il fufu, un tipo di polenta alla base di diverse ricette. Questi sono i nostri Expo Pub, curiosità, tutte pescate da Expo, ma torniamo a parlare di sostenibilità, torniamo a parlare di terra, torniamo a parlare di un atteggiamento che è un po' quello dell'uomo forse nei confronti del pianeta. Siamo un po' prepotenti? Siamo decisamente prepotenti. Prima Mario Tozzi diceva che potremmo usare questa metafora, che la terra come un grande organismo. e su questo organismo da tutto sommato poco tempo, 200.000 anni si diceva prima, esiste una specie particolare che siamo noi. Visto dal punto di vista dell'evoluzione, noi siamo una specie bambina, siamo nati da poco rispetto all'età media di una specie. Noi siamo proprio 4-5 anni, eppure ne abbiamo già combinate di tutti i colori, perché la cosa molto importante è che questa specie che siamo noi non è così invasiva da poco tempo. In fondo l'agricoltura, se ci pensi, che cos'è? È il fatto che abbiamo imparato a fare produrre all'ambiente, agli ecosistemi, molto più di quello che loro produrrebbero naturalmente. Quindi già quello è stato un momento in cui una specie ha trasformato la superficie terrestre. E pensa che gli scienziati hanno già visto questo proprio a livello geologico. Abbiamo trasformato le rocce, diceva prima Mario, tant'è vero che si usa una parola nuova che è antropocene, cioè un'età geologica molto recente che è quella dell'uomo. E pensa che andando indietro ancora di più nel tempo, 40-50 mila anni fa, si scopre che anche i cacciatori raccoglitori di prima, già anche loro erano un po' prepotenti. Quando sono arrivati in Australia, per esempio, 50 mila anni fa, o nelle Americhe, 20 mila anni fa, hanno fatto fuori letteralmente, si sono mangiati tutti i mammiferi al di sopra di una certa taglia, quelle che i bambini conoscono benissimo, la tigre dei denti a sciabola, il mastodonte, il bradipo gigante, tutti ce li siamo mangiati, centinaia di specie estinte in pochi secoli. Quindi vuol dire, come ha detto un grande scienziato che è Luigi Luca Cavalli Sforza, che noi siamo una specie prepotente, cioè siamo stati invasivi e molto espansivi da tantissimo tempo, quindi dovremmo adesso imparare a rallentare un pochino quantomeno. Infatti, perché siamo prepotenti però non apprendiamo dai nostri errori, almeno questo è quello che a volte sembra. Sembriamo ripeterli da tanto tempo, esatto. Pensa che quando siamo usciti dall'Africa la prima volta eravamo in 30.000, adesso siamo più di 7 miliardi, pensa che corsa. Adesso invece è il momento di Expo Kids. Expo Kids. Dire, fare, giocare. Si gioca con gli esperimenti scientifici proposti da Andrea Vico, giornalista scientifico di TuScience, www.tuscience.it, il sito di riferimento per tutte le attività proposte. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Buongiorno, buongiorno Federico, buongiorno Telmo. Beh, la parola sostenibilità è una parola che ti dà tanti spunti, uno dei tuoi grandi, insomma, cavalli di battaglia da sempre nelle tue attività, non solo scientifiche, ma anche proprio di sostenibilità, nel senso di impariamo a vivere in un modo migliore, più attento alle persone e alla terra. Esatto. Cosa ci Paroloni, proponi? Decisamente. Ma allora, fare esperimenti di sostenibilità è possibile, ma chiaramente con tempi e scale ben più grandi. Però per questa domenica un piccolo esperimento possiamo farlo, un esperimento su noi stessi, diciamo così, e riguarda il nostro armadio, l'armadio di casa. Ah. Quindi l'esperimento inizia dalla vostra camera. Sì. Non so se mamma o papà saranno felici, ma dovete tirare fuori tutto quello che avete nell'armadio, tutti i vestiti, e disporli sul letto, sulle sedie, sulla scrivania, creando dei mucchi, diciamo, tematici. Per cui, da un lato, la prima grande divisione è tutto quello che è di fibre naturali, il cotone, la lana, in primo luogo, e tutto invece quello che è di fibre artificiali. E questo ovviamente significa andare a leggere le etichette, quindi nylon, licra, poliestere, acetato, vistosa, elastam, rayon, insomma tutta una serie di parole magari anche strane, qualcuna con il cellulare cercatela su Wikipedia per capire da che parte sta. E dopo questa operazione vedere i mucchi come si sono formati, quindi quante fibre sintetiche in qualche modo noi ci portiamo addosso e quante fibre naturali. Perché questo esperimento? Perché fondamentalmente una fibra sintetica deriva dal petrolio, perché è plastica, una forma di plastica che noi indossiamo quotidianamente, che ci va benissimo, che è comoda, anzi noi ringraziamo il nostro grande Giulio Nazza, che è stato per uno dei primi a aiutarci a capire come dal petrolio si potesse ricavare una plastica molto utile nella vita quotidiana, solo che ovviamente è un tessuto relativamente poco sostenibile, perché significa intaccare delle risorse e soprattutto consumare tanta energia per tirare fuori da quel barile di petrolio che noi siamo magari abituati a vedere in qualche telegiornale un filato che poi è comodo da mettere sulla pelle o mi aiuta d'estate ed inverno a, diciamo, a proteggere il mio corpo dal sole piuttosto che dal freddo. Mentre dall'altra parte forse il mucchietto un po' più piccolo sarà dedicato ai vestiti con fibre naturali. Sicuramente il cotone la farà da padrone. Sì. Il cotone però è una pianta che viene diciamo coltivata in maniera intensiva con enormi consumi di acqua. Perché devo accelerare, perché devo stare dietro al consumismo, perché tutti siamo abituati a ogni cambio di stagione cambiare quasi l'armadio e comprare un sacco di robe e quelle che non usiamo più chissà dove vanno a finire. E quindi questo processo di fatto consuma risorse ed è poco sostenibile. Il cotone potrebbe crescere tranquillamente, però è più interessante, e questo diventa la seconda parte dell'esperimento, andare a cercare nei negozi della vostra città degli altri filati naturali che possono far sorridere. Però io per esempio ho un paio bellissimo di pantaloni di bambù. Non nel senso che sono rigidi, sono un po' rigidi, no. Però dal bambù si può tirare fuori un filato con cui si fanno dei pantaloni che sono dei pantaloni, dei capi di abbigliamento che sono leggerissimi, tengono molto bene, diciamo, respingono molto bene il sole e quindi sono anche molto freschi d'estate. Ma lo stesso si può fare con il cocco, per cui anche dal cocco, dal guscio, chiaramente la parte che non mangiamo, che quindi è comunque uno scarto dell'industria alimentare, si può tirare fuori un filato. La paglia di riso, le piume dei polli degli allevamenti, la canapa, esiste un tipo di canapa diciamo per fare tessuti che è molto resistente, cresce anche in terreni con poca acqua, quindi è in molte situazioni un bene, un aiuto per quel terreno. E, quindi la sfida, dopo aver visto quali sono diciamo gli ingredienti dei nostri armadi dal punto di vista del materiale, è andare a diminuire pian piano le fibre tecniche, le tecnofibre, mm-hmm. e aggiungere tutta una serie di capi di abbigliamento i più strani che trovate. E magari possono anche i nostri amici segnalarceli man mano che trovano qualche cosa sulla pagina Facebook, e così andiamo a vedere anche attraverso una foto chi è riuscito a trovare l'abito più strano con il tessuto più strano. Assolutamente, il bambù direi che insomma per ora rimane al primo posto. Grazie davvero ad Andrea Vico, www.twoscience.it. L'appuntamento alla prossima settimana, ciao e grazie. Ciao. Ciao a tutti. Adesso ci fermiamo, una filastrocca al traffico, poi ancora qua con Terra in Vista. Filastrocca dell'albero. Albero, abbraccio e respiro del mondo. Strade, radici che arrivano in fondo. Chissà da dove arriva il tuo suono, suono che parla di un cuore buono. Chissà da dove arriva il tuo canto, canto di foglie che vibra d'incanto. Mentre ti ascolto, ti parlo e ti penso e il mio discorso diventa denso. Tieniti stretto a questa terra, cresci più libero che in una serra. Afferra il cielo e portalo a noi, tendi i tuoi sogni più in alto che puoi. E se qualcuno ti vuole strappare, tu vienimi a chiamare. Terra in Vista. Eccoci qui, Terra in Vista, questa terra che oggi vi stiamo raccontando dal punto di vista della sostenibilità, terra che amiamo tanto. E infatti ascoltate un po' qual è la prossima domanda. Perché il nostro pianeta è il più bello dell'universo? Affascinante, Telmo, come domanda? Sì, esatto. Chissà poi sperduti noi nell'universo, chissà quanti pianeti non conosciamo, peraltro. E per dare questa risposta abbiamo convocato una persona che l'universo lo conosce molto molto bene. Diamo il benvenuto a Giovanni Bignami, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ciao Giovanni, benvenuto a Terra in Vista. Ciao. Grazie, saluti a tutti, ma soprattutto all'autore di questa splendida domanda. è vero, nel senso, abbiamo gli elementi per poter dire che la Terra è il pianeta più bello dell'universo? Senz'altro, la risposta più ovvia è perché c'è lui che ha fatto la domanda, no? Perché sono i suoi occhi che lo rendono il pianeta più bello dell'universo. Mm-hmm. Poi ci sono risposte un po' meno romantiche, che sono perché noi ci siamo sviluppati, come ci insegna Telmo, come cosmopoliti invasivi, diciamo, su questo pianeta. e quindi a noi sembra più bello perché ogni scarrafone è bello mamma sua, no? Come ci dice, cioè, certo. È ovvio che, e poi ci sono risposte ancora più avanzate che però l'autore della domanda capisce benissimo, perché lui fa parte di quelli, quando saranno grandi farà sicuramente l'astronomo, mm-hmm. e sarà lui che scoprirà tutta quella serie di pianeti che noi cominciamo adesso a intravedere in giro per l'universo. Scopriamo che ogni stella c'ha intorno dei pianeti come il Sole, quindi ce n'è tantissimi di pianeti là fuori, e bisognerà fare un concorso di bellezza tra tutti i pianeti che lui scoprirà. Quindi diciamo che il nostro pianeta è perfetto per la vita, la sua bellezza sta in questo. Diciamo che è al posto giusto, no? Ecco, al momento giusto. C'entra anche il momento dell'evoluzione della stella intorno alla quale giriamo, che aiuta a tenerci caldi, eccetera. Certo. E... Giovanni, oggi stiamo parlando di sostenibilità, quindi del come proteggere anche il nostro pianeta, però intanto ci prepariamo e andiamo a vedere se esistono altri pianeti. Perché c'è tutta questa curiosità? Si cerca altra vita o si cercano posti dove poter andare a vivere eventualmente? Tutte e due, in un certo senso, ma prima di tutto c'è una curiosità scientifica di base, no? Dai tempi di... chissà, insomma, da quando la gente ha cominciato a guardare le stelle, poi citiamo Giordano Bruno e Leopardi tra i più recenti, ma non vogliamo fare pallosi professori, diciamo che viene naturale dirsi il cielo è pieno di stelle, beh, ci saranno anche dei pianeti intorno. Tutti l'hanno pensato, ma gli astronomi hanno cominciato a vederli solo pochi anni fa, diciamo una ventina d'anni fa per intenderci, a vederli davvero, e adesso però ne abbiamo già diverse migliaia, molti dei quali cominciano a somigliare alla Terra. La Terra è difficile da vedere, ragazzi, perché è più piccola che non Giove, per esempio, mm-hmm. e poi perché è vicina alla sua stella, al suo Sole, quindi proprio molto difficile vedere. Però, diventando bravi con telescopi, riusciamo a scoprirne. Allora, prima o poi troviamo veramente un'altra Terra, un pianeta che ha l'acqua liquida, ha l'atmosfera, ha il campo magnetico, eccetera. A quel punto ci chiediamo c'è la vita, e abbiamo modo anche di capire se c'è la vita, perché analizziamo per esempio i gas che ci sono nell'atmosfera, sì. E se decidiamo che potrebbe esserci la vita, verrebbe una voglia matta di andarci, Ma secondo te questa vita ci assomiglia tanto o sarà molto diversa da come siamo noi? Questa è la grande domanda filosofica che c'è dietro questa, domanda, no? Domanda filosofica alla quale naturalmente io posso solo rispondere umilmente da scienziato. Una cosa so, direi di sicuro, se posso dire, perché l'ha detto Einstein, che la fisica e la chimica negli altri pianeti, cioè in giro per l'universo, sono la stessa di quella che c'è qui. Questo è già un buon punto di partenza. Se per fare la vita io ho bisogno di molecoloni grossi, perché sa poco è vero, allora ho bisogno per esempio del carbonio, cioè lo stesso modello che vale sulla Terra, presso poco deve valere laddove valgono le leggi della chimica e della fisica. Ma mi fermo qua. Quindi omini verdi con due gambe e due braccia non è detto, insomma. Non è detto, verdi o anche poi, chi lo sa. Quindi andresti volentieri in un pianeta simile alla Terra, ma ti faresti anche volentieri, che ne so, una settimana su Marte, che è qui più vicino? Una settimana su Marte subito, partirei domani con Alpitour, cioè subito, non di più, una settimana. Adesso sta per uscire questo film, Il Marziano, sì. Non so come è, quello con Matt Damon. Ragazzi, andate a vederlo, perché deve essere bellissimo. Io ho visto solo il trailer, deve essere bellissimo. Però è uno che si spara, mi pare, 5 anni su Marte, insomma, due palle alla fine. Una vacanza lunga. Giovanni, un'ultima domanda. Tu sei appassionatissimo da sempre di fantasy, Jules Verne, il tuo grande mito. Ma guardando l'universo, è più bella la fantasia o è più bella la realtà che poi hai incontrato nei tuoi studi? Senza dubbio la realtà, come è noto, supera la fantasia. Questo è da dire anche a tutti i giovinotti che ci ascoltano, che uno scatena la fantasia e poi trova sempre una realtà più bella, più inimmaginabile, più sconvolgente. Il fascino di fare lo scienziato. Che bello, che bello. Insomma, è il gusto della ricerca e del non accontentarsi mai. Grazie davvero Giovanni, ciao e buon terra in vista. Giovanni Bignani, ciao, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, oggi con noi per raccontarci perché il nostro pianeta è il più bello dell'universo. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Slovenia. Quante sono le regioni gastronomiche in Slovenia? Sono ben 24. Infatti, la cucina slovena è molto ricca non solo di gustosi piatti di carne e pesce, ma anche di una grande varietà di dolci. La Blejska Krešnica, specialità di Bled, è una torta di pasta sfoglia ripiena di crema alla vaniglia e panna montata. La Premuška Gibanica è un dolce formato da strati di ricotta farciti di noci, mele e semi di papavero. Non dimentichiamo la famosissima torta luviana, a base di farina di grano saraceno, castagne, fichi, semi di zucca e cioccolato, e il pan al miele. Meden Cru, delizioso dolcetto a forma di cuore. Yuhu! E queste sono alcune delle cose che abbiamo imparato oggi. Che il sole ci tiene al guinzaglio e ci fa sembrare sospesi nel nulla. Che ci si può vestire anche di bambù. Che la Terra nella sua storia ne ha già viste di tutti i colori, ma che questa volta potremmo essere noi la specie a rischio. Che il nostro pianeta è come un organismo vivo e qualche volta si arrabbia pure. Che le scoperte degli scienziati a volte sono più incredibili della fantascienza. Questa è Terra in Vista, anche oggi una bella puntata, insomma la sostenibilità, abbiamo cercato di capire meglio questa parola. Grazie Telmo, come sempre, per i tuoi racconti. A presto. Allora, Terra in Vista, vi ricordo che tutto ciò lo potete riascoltare sul nostro sito, il sito è radio24.it, andate nelle pagine di Terra in Vista, lì ci sono le domande, ci sono le risposte, le filastrocche e anche gli Expo Pa, tutte le nostre curiosità estratte direttamente da Expo. Vi ricordo che Terra in Vista è un programma scritto con Margherita Ine e Silvia Righini, oggi alla parte tecnica Carmelo Lauricella. Le attività pratiche sono state proposte da Andrea Vico e Alessandra Falconi. La sigla e la base invece che state ascoltando è stata composta dai Matita. Sì, questa musica che sentite sono pennarelli, sono matite, sono disegni fatti su dei fogli amplificati e ci piaceva avere questa musica assolutamente sostenibile. L'appuntamento come sempre alla prossima puntata con un'altra parola, con un'altra tappa del nostro viaggio. Filastrocca sul rispetto dell'ambiente e delle sue risorse. Qui si impara invergiocando, risparmiando e riciclando per salvare questo mondo in allegro di rotondo. L'acqua oggi è assai preziosa, più importante di ogni cosa. Non sprecarla nella doccia e conservane ogni goccia. Pile, carta, lampadine, vetro, plastica e lattine. Non buttarle tutte insieme, differenziale per bene. Mentre giochi coi colori puoi scoprir nuovi valori. Il rispetto dell'ambiente, della terra e della gente.